Attento, bombolino. Antonio. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ora. Allora, a me mi hanno intanto che sono andato all'Inps, prima dopo che sono uscito all'Inps sono andato a Rizzeggio e infatti il padrone mio è stato inviato l'11 di giugno, mi capito? Invece quello di Simona ancora è in lavorazione. Non ho capito un cazzo. Sento poco di radio. Ancora, fai lasciare un po' di più. Guarda così, una, due, tre, prima. Adesso va bene così, stavo dicendo. Ecco, come a me quello di Simona non è pronto. Non lo so, la verità non lo so. Dice che lavorazione, infatti gli mancava il foglio di cardiologia, guarda che quello l'ho mandato, quello ha fatto meno il foglio con la psichiatria, gli ho detto, che è stato mandato, gli ho detto qua, hanno sbagliato, ho detto come si chiama, il tipo di, come si dice, la facoltà, adesso mi viene in mente il nome, comunque mi hai capito. Quindi in pratica, ho mandato a fare quello, e per non denunciarlo, gli ho detto, a quello stronzo, gli ho detto, se no, comunque sia, gli ho mandato tutto, ho detto per Simona. Ottimo, sicché ogni tanto tu li devi chiamare così, per vedere se... perché se non li chiami loro se ne sbattono. Beh, questo è logico, ma comunque il mio è dall'11 di giugno, mi ha detto lui, quello di Rizzetto, e invece quello di Rizzetto mi ha detto che non ha detto niente, quindi a un certo punto adesso ci vado tra 15 giorni e glielo dico, e dico come mai, gli ho detto, risulta a Rizzetto mandato il mio faldone, di roba l'11 di giugno, strano, e a lei non è arrivato, quindi ci sono due mesi di tempo di ricco, siamo a luglio, agosto sono andato in ferie, gli ho detto quindi poi c'è il Covid, così gli ho risposto, poi c'è il Covid, e se ne parlerà, gli ho detto forse ottobre, novembre, gli ho detto, secondo me, ci verranno meglio, gli ho detto a un certo punto, quindi ho detto, vedete voi. Eh sì, loro entro 90 giorni, così che dopo più passa il tempo e più te ne danno di interessi, capito Antonio? È così che funziona con questa gente, però loro poi, cioè, tirare la truppa alla lunga, è vero che ti danno gli interessi, però cioè, io ti ho detto, se io non li telefonavo a quelli, chissà quando accreditavano, se le va bene, a me mi hanno detto, le va bene se parte da oggi, ma stai scherzando, cioè, se va bene, no, dovevi farla partire già dal mese scorso, no, da oggi, a chi ti ha giù telefonando, miserabile. Sì, ma se ne è forte, non capitaccio con la persona nel Covid, se ne è forte, e tu vedrai che arriverà il Covid, quindi bloccheranno tutto, quindi ci passerà, non settembre, passerà ottobre, novembre, dicembre, a me non mi ha dato niente, io quello che mi tocca lo voglio, io voglio ritornare e fare causa, io ho detto, non per altro, ho detto, sto facendo immediatamente causa, tanto so come finirà, io ho detto, a un certo punto. Beh, infatti, è importante che che gliela diano, capito? Perché se è tutto già approvato gliela danno. Però sì, c'è da aspettare. Però siccome da voi un tempo entro quella data lì, ma loro la superano alla grande, siccome gli interessi non li scini da buscia a carasuia, sicché ai dipendenti non ve ne fotti nulla se passano 180 giorni pure. Dice tanto di dare gli interessi, cosa ve ne fotti. Però era per anche per una questione che si tolgono dalle scatole anche un'altra persona con tutte quelle che hanno, capito? Sì, ma me lo risposti, c'è in pratica la risposta di solito sia entro 60 giorni, sì, gli ho detto, e il COVID gli ho detto, ha contato, detto, l'anno scorso gli ho detto, secondo lei gli ho detto, quanti mesi sono passati che ha fatto i 90 giorni, gli ho detto, i 60 giorni gli ho detto, a un certo punto. E così faccio i conti, quindi a un certo punto faremo come prima, tanto il COVID stiamo salendo in Sardegna, a un certo punto si blocca tutto, lei se ne va bello tranquillo in ferie a casa, gli ho detto, e io ce l'ho in culo, no, che no, proprio gli ho detto, e poi io vengo, detto, vengo all'agosto, gli ho detto, a me non mi frega niente se voi siete in ferie, vengo la cosa a rompervi le balle, gli ho detto, perché voglio prima sapere le cose per farvi causa, non per altro, tanto finisce così, gli ho detto. Oh yeah, un casino, ma Antoine si sente un casino, ma tu di cosa, ma dove sei? Una scatola, c'è il, aspetta, ah, la ventola del coso, c'è, aspetta, era per darmi la scatola. C'è la pentola, e sono cazzo moglio dal caldo qui in camera. Ah, no, no, lasciala. Ah, gli ho detto, ma si intende, lo vento, ha detto, passa in carriera. No, ho acceso la pentola e c'avevo caldo, ce la fai. Stamattina uno si sente male davanti allo spigli, lo sai. È entrato dentro, ha fatto la spesa, è uscito fuori, cazzo, separandomi. Ma già stanno, adesso non so se da lunedì che cambia, mi pare da lunedì, è così. Purtroppo il discorso è quello, il caldo è forte, poi entra dentro lo spigno, c'è freddo perché ci sono come si chiama? Lo sai anche tu, i frigoriferi, la maletta, quindi esci fuori, cazzo, e ti crepa, non arrivi manco la macchina. Hai capito? Il discorso è questo. Quello se si trova male, cazzo, è preparato e ha chiamato l'ambulanza. Perché sono esagerati, Antonello, sono esagerati. E così che... ma soprattutto per gli anziani, porca miseria, li crepa gli anziani, non puoi mettere un'aria condizionata così bassa, certo, dall'impatto c'è fuori, di solito, ma metti 5 gradi in meno, no, 5, 7, perché lo smalzo non ci deve essere così tanto, invece c'è uno smalzo incredibile, il corpo è caldo, sudato. E infatti stamattina quando sono entrato ho sudato. Era un ragazzo minimo con la barba bianca eccetera eccetera, ma un vecchio, capito, c'è sceso l'hanno come l'ha fatto l'ambulanza, qui sono dentro l'ambulanza, non è sceso giù, la verità, gli hanno misurato la pressione, eventualmente ha avuto uno sbalzo di pressione allucinante, e quindi capito, non ha tenuto lì, magari ne hanno fatto qualche flebo per poter sistemarsi, se no dico un casino. L'altra volta cazzo io mi sono fatto da Cicci a casa, sono arrivato morto, sono arrivato, non riuscivo più a respirare, figurati tu. Poi uscire con queste determinate ore non fa Antone, perché fa male, crepa, proprio lo sconsigliano, Io ce l'avevo adesso da lunedì già rinfresca, non si sa per quanto, ma già rinfresca. Speriamo veramente che non debba depire, guarda, di questo caldo così, non si può uscire, devi stare molto attento, se esci magari ti fai anche male, non so l'altro. Senti, abbetti una birra oppure abbetti una lanciata, quello che esci fuori dal coso, c'è il condizionatore da dentro, esci fuori e sei morto. Perché bisogna metterci un golfino quando si entra lì, prima di entrare lì una felpa di boni, capito? Beh, Antonio, adesso continuo a fare queste prove, io le sto facendo qua, vedo le foto che devo mandare. Ecco Ruggero, allora, di va bene, no? Sta andando bene sempre. Sì, sta scendo bene, voglio. Io adesso questo palicchio qua devo darlo a Antonio, si è sollevato l'antenna, gli ha cambiato il... non era più dalla prima, ce l'ha messa da un'altra parte, adesso... in pratica mi sembra che passa domani o dopo domani. Adesso poco fare il tovizio, se vuoi passare stasera, lo faccio stasera. Per avvertire l'apparecchio, questo qui, con il microfono amplificato, dovete farvi la casa, con i miei. Almeno farli tranquillo, non è nessun problema. Eia, mi sto dando il 2009 a usarle. Almeno esce più forte di potenza. La parte lineare che c'è, vabbè, che le ho passate. E il microfono amplificato, quindi almeno lo senti meglio. Dice adesso tiro su tutto questo paro e cosa vuol dire? 40 centimetri, 60 centimetri, detto, non risolvi niente tirando su solo quel pezzettino che hai lì, perché mi ha mandato le foto, gli ho detto non cambia niente, guarda, tranquillo, che quei 40 centimetri che non stai cambiando nulla. Però non so, ci sono anche dei problemi, non vuole che magari quella di lì o la padrona di casa, non so se la vede troppo alta, le dica qualcosa, è un problema quando è così. Però ho detto, da così a tirarla su non cambia niente, tranquillo, tirali su quei 60 cm che hai, ma non ti giamba nulla. Io ho detto, mettiti piuttosto un microfono preamplificato, perché via radio che non arrivi, se no è 6-8, siete, anche se la tiri su, non risolvi niente, ma se ti metti un microfono preamplificato almeno arrivi di radio. Sì, quello sì, sono d'accordo anch'io con te. Io gli ho detto a lui più che altro di prendere un palo da piccolo, di quelli da 8 metri. Capito? Siccome la B27 è leggera, quindi non succede niente, quindi i soli 2 metri in pratica sollevi fino a e ci avrai 6 metri più sopra l'antenna TV ed è a posto, capito? Perché non ci vuole neanche un tirante, non mi fa niente. Io ho fatto così e non mi è mai successo niente. Il palo, cioè l'antenna di Giovanna si piegava, quello sì, però il palo rimaneva tranquillo, il discorso è quello lì. Infatti ho detto quello, secondo me io ho detto ti conviene fare così, ti prendo un tubo telescopico, gli ho detto, di quelli da Bricomen, piazzi l'antenna e prendi la sollevi su, da qui. Boh, e finito di rompere le palle che hai detto con la padrona di casa. Il suo problema è quello, Antonio, che lui ha paura che gli dica una cosa, perché a parte che quelle due staffe lì montate così vicine una all'altra non lavorano tanto bene, perché sono troppo vicine, troppo, capito, non lavorano bene così, sono troppo vicine. Però, se tira su 6-7 metri, ma è la sua paura che poi gli dicano cosa, capito? No, guarda, la verità, io ho pensato le staffe qua a casa, per la tenere Giovanna, sono arrivato a 4 metri, vabbè, siamo vicini, neanche un metro uno dall'altro, e non è successo niente, la verità. Quindi è rimasta tranquilla. L'unico problema è che in pratica dice che io disturbavo questo signore, che mi sentiva dentro alla, come si chiama? Dentro all'amplificatore delle non so di che cosa, hai capito? Allora da lì l'ho tolta e ce l'ho messa a posto della mantova, che avevo staccato 2 giorni dopo. E poi ci ho rimesso la VHF, ci ho rimesso, quindi è strano, è una cosa del genere, che la 27 di tuba, la VHF no, è strano. Secondo me è un vantaggio per il culo, ma comunque sia, vabbè, adesso ho preso questo palo qui così e in seguito me lo prendo come si deve. Lo sollevo, li metto i tiranti e ci piazzo l'antenna ai giovannatori. Lo sollevo 4-5 metri, quello che, in modo che il giovanna sia tranquilla. Poi se quello gli disturba l'altro parlante del cazzo, come si chiama, non so di che cosa, se la può prendere pure in culo. Ma troppo vicine, troppo vicine sono quelle staffe, sono buone, ma se le metti così vicino non vanno bene, non lavorano bene, capito? Troppo vicine, a me va bene, una all'altra, e quelle lì sono troppo vicine, sì che ne ho spazio in quel muro, Tutte le più lontane in effetti, però in un casotto mi sta spiegando lì con la padrona di casa, mi sa, oppure con c'è la vicina. Vabbè, questo è un casino. Anche io ho avuto dei problemi quando ho messo l'antenna di Giovanna. Prima quando ho sotto la mantova, immediatamente mi ha telefonato questo, stanno entrando dentro l'amplificatore, non so di che cosa. E io ho detto, come si chiama? Dimmi chi è? E ho detto, scusa, no, non te lo posso dire. Allora ho detto, dire che se la prende in culo, a un certo punto. Poi cosa ho fatto? Ho tolto, siccome dovevo toglierla, la mantova che avevo staccato il piede, eccetera, eccetera, l'ho buttata giù per strutturarla. E dopodiché provvisoriamente ci ho messo quella che era da quella parte lì, l'ho spostata sulla dove c'era la mano, ma quindi se risulta lui si manca l'altra, e invece era tutto quanto balle, hai capito? Evidentemente si è spaventato perché ha visto due antenne di baracchino e dice cazzo, questo dice si sta allargando, hai capito? Ma boh, un casino, ma se c'è il diritto d'antenna, poi giustamente se uno vuole fare così in regola, a meno che non ci sia una legge condominiale scritta che non voglia una determinata allora lì è un problema, ma non so io una legge condominiale quanto possa valere rispetto a una legge che vera e propria, perché un regolatore che vuole per dire vivere appunto un condominio non è il tuo e non può montare le antenne per questa legge condominiale che ci hanno fatto tra di loro, mi sembra che fino a che punto possa funzionare quella legge lì rispetto alle normative e alle leggi radiomatoriali per il montaggio di antenne, cioè. No, quello non funziona, quello non è così, hai capito? La legge condominiale proprio non c'entra proprio niente, quindi ognuno può installare ciò che vuole, hai capito? 27, VHF, quello che è. C'è il decreto ministeriale, puoi tranquillamente installare ciò che vuoi. Come loro possono installare, per dire, una parabola, un'antenna TV, eccetera, eccetera. Se non la puoi installare lì, la installi in un palazzo a fianco. Il discorso è quello. C'è anche scritto. Guarda, io ho passato di fuori là del talupo, con il rotore addirittura, non mi ha detto nessuno niente, sì ma c'è una testa un attimo, capito, perché magari mi vedono sul tetto, ma qui non c'è salire nessuno, capito, non c'è salire nessuno qua, se mi chiama la cortesia potrei montare l'antenna della televisione come ho fatto a quello del bar, come l'ho messo al mio vicino, a quello del terzo piano, capito, non c'è nessun problema. E ti pare che con tutto il tempo che c'è sono in affutti. Però mai, dico mai, in 30 anni è venuto qua a bussarmi la porta dicendo che gli stava facendo TVI, né con lineari né niente, mai, né nel palazzo di fronte, né vicine, e né mai nessuno. Capito? Mai nessuno che mi abbia detto, guarda, mi stai disturbando il televisore o sei nelle cuffie, cosa vuoi ti dica? Io l'antenna mia cerco di salirla sempre il più possibile, perché di solito le antenne radio, non come fanno molti che la abbonano a 1,50 m, intanto mi sentono lo stesso, arrazzati i discorsi. Capito? Non è questo di sentirti lo stesso, che l'antenna può essere a una certa altezza, determinate antenne, ma non è a una certa altezza. E siccome io cerco di salirla quanto più possibile, perché qua non è, come ben mi sono detto, non è che sia una cosa dolce. Allora, l'antenna a norma, in pratica, è installata per le baracchino un quarto d'onda davanti alla televisione, quindi in pratica dovresti essere 2,70 m davanti alla TV. Il discorso è questo. Ma se tu metti un bel palo dai 5 metri in su, l'antenna va, se è una grande, capito? Poi metterla con un paretto perché hai paura che il vento la rampa, che la pieghi, che si vada dalla strada. Ma lì c'è il problema che uno, se non ha la passione, non si deve mettere minimamente. Io la penso così, capito? O che il vento la rampa, cioè, ma di cosa parliamo? Purtroppo... Hai capito, ci sono, vabbè, in pratica non è in un condominio Antonio, nel condominio normale, lui è il condominio di una villetta, e questo, quindi la questione cambia. Quindi in pratica la padrona ha affittato per dire due o tre appartamenti, quelli che sono, hai capito? Prima di esserci lui c'era un altro civile arrematore, hai capito? E in pratica da lì poi si è trasferito e è andato a un'altra parte, quindi secondo me l'ha fatto fuggire da una cosa all'altra e quindi sta facendo la stessa cosa anche con Antonio, secondo me, poi non lo so. E che si è salvato il mio mare, l'affitto probabilmente, con la scusa magari che anche vicino al mare, boh, magari da noi non guardo in zona, no? Nel mio esempio la macchina ci sta a coso, per farti le commissioni, ma... però se ne togli la comunità di essere indipendente, di mettere l'antenna nel baracchino, abbiamo visto senza un condominio che andrà a rompere le scatole, gioco in campagna, e cioè mi vieti tante cose, allora mi nando, me ne becco un'altra. Fosse stato indipendente sì. Io ho visto queste bigliette che sono qua su me, l'ultima che avevo fatto all'incrocio con su in via Milano, guarda, sono veramente belle, insomma. Se avevo vinto la Superenalto avrei comprato primo e secondo piano, lo sto dicendo. L'avevi preso tutti e due io, hai capito? Come villa. Avevi installato quello che voglio, non avevo avuto problemi di nessuno, mi sarei fatto fare una bella modifica per poter installare tutte le antenne e cose del genere, non avevo avuto problemi di nessuno. La macchina, la moto, eccetera, eccetera, non avevo avuto problemi, avevo per mille palle nessuno nel condominio, un domani, per dire, con la pensione, avrei messo parte, eccetera, eccetera, per fare la ristrutturazione del, come posso dire, del perimetro, della villa, per tingere le cose del genere, è stato bene, ma purtroppo non si può fare così per il momento, avessi fatto qualche vincita sì. Antonio, ti devo lasciare che devo scendere anche giù. Ci sentiamo dopo, così finisco anche questo video che devo mandare. di una radio. Ci sentiamo dopo al limite, Antonio, che devo scendere giù anche. Va bene, là, ok, non c'è problema. Adesso sono a casa e poi devo uscire da Fusaro a comprare dei pezzi per riparare un inverter, capito? Quindi passo lì da Fusaro, prendo i pezzi per l'inverter e poi ritorno a casa. A più tardi, Antonio. Ciao ciao. Ok, ciao, alle prossime, a dopo, dai, ciao, stammi bene. Sarà 6, 7, sarà una cosa del genere. Cioè va bene, se ne avevi 5, l'avevi 5, va bene. E tu come mi senti a me, peggio o meglio? Io va bene, un po' bassina, come si chiama, non è cosa del segnale, però ti ricevo, capito? Non c'è nessun problema. Aspetta che attacco il tempo tu 2 minuti, così ti non controllo il giusto, va, 2 minuti. E io che quando è mi chiami, che io chiudo tutto così, d'accordo, quando sei pronto mi chiami. Prova a fare un passaggio 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova pronto. E qua sei più forte, sì, come segnale. Segnale 8, sì, radio 4, va bene comunque, 8 di segnale va bene. Sei quanto cosa? Quello c'è di fronte a te. Tu arriva così con 3009, fare uguale. Ah, ti arriva lo stesso segnale come il mio, quello che è preso di casa? Sì, quanto tu dicevi di casa, fare uguale. Liscio con 3009 è uguale, sei uguale, preciso identico. Allora non mi posso lamentare, va, ha migliorato la questione allora. Non va bene, che fa voglia. Quasi 9, sei preciso, uguale, non cambia nulla. Tutto può essere un fosso, lo sai anche tu, no? Quindi a un certo punto va bene. Dovresti chiamare al limite a cosa? Cosa ti posso dire? A Franco di Sorso, per fare il controllo, a... Scusamelo, lo sai subito come esci. Vabbè, se capita Franco di Sorso, glielo chiederò. Ma adesso va bene così, Antonio, allora, d'accordo. Fammi chiudere tutto qua perché sennò non sa mai. Stai bene, no? Che non sia con quella cosa. Sì, comunque siamo aumentato comunque, la verità. Se attacca il lineare arrivi 9.10, 9.15, quindi a un certo punto è aumentato. Aspetta che chiamo a Franco, così ti va a controllo, dopo va liscio, sei liscio, quindi a un certo punto, così ti va a controllo, 2 minuti. Ok, già sono qua, io tanto mi sto sistemando il PC così, ce lo metto a posto e quando siete pronti mi chiami, ok, a dopo. Se non ti chiama prima quello di sotto che ti sei tagliato le cuffie, mi dico se è quello. Vabbè, adesso lo chiamo a cosa? Mi vedo ridere. Chiamo a Franco prima, adesso va, 2 minuti. ciu, ciu, ciu, ciu, ciu. Adesso ho chiamato a Franco, vediamo se risponde, così almeno ti la controllo, va. Pronto, pronto, pronto, dottore, guarda che tra poco entra Franco di Sorso, così ti la controllo. Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, Antonio, ci sei? Yes. Ok, allora, aspetta in 5-6 minuti che entra Franco di Sorso e ti la controllo. Va bene. Non sei tu quello. Antonio, ci sei? Sì, io ci sono, sono qui, sono Antonello. Ah, ok, ti ascolto, ok, siamo a posto. A poco entra 5 minuti, mi ha detto. Entra Franco e ti do un controllo, ok? Va bene, d'accordo, sono qui che ascolto tanto, stai tranquillo. Comunque, come segnale sei a posto, sei giusto, perché in pratica tu vicino di casa esce la stessa cosa col 2009, lo stesso segnale, quindi se tu vuoi attaccare un pinvoto arrivi 9.10, 9.20, cos'è quello? Quando arrivo a Sassari 9? Lo sto dicendo io, siccome l'ho visto io l'altra volta, mi faccio fare la prova, in pratica qua a Sassari con lo 2009 arriva lo stesso segnale tuo, invece con Kenwood 100 watt e cose del genere cambiano le cose, cioè in pratica se tu attacchi il lineare è lo Joker che arrivi il segnale 9, hai capito? Tutto lì. Sì, vabbè, l'importante è che esca e si faccia sentire adesso. Si fa vedere il propagation, no? Come si comporta, capito? E vabbè, adesso già entra fra poco Franco, ecco 5 minuti mi ha detto. Quindi, figura di tu, sei a posto. A un certo punto, no? Mi sa che già hai azzeccato la zona per uscire meglio. Quindi va bene così. Ti metti un bel un bel lineare, se non disturbi le campi naturalmente, lo sai anche tu, sarebbe caffè, mamma mia, meglio niente. Fino adesso non è arrivato nessun messaggio. Non vorrei che stessi ascoltando in cuffia. Che mi dica, mi pare che stai trattando le cuffie. Vabbè, adesso vabbè. Lascia stare così come stanno le cose. Dopodiché una volta che tu sei a posto, mi lasci l'apparecchio e poi ci mettiamo un microfono amplificato, sei a posto. E tu momentaneamente utilizzi uno dei miei gli apparecchi, capito? Ma vuoi uscire bene. Robby, quasi pure che siamo del campo. Che è molto schermato e via dicendo e non crea scurie. Allora tutto sul casino? Franco? Via, buonasera. Ciao Franco, Antonio, come mi dicevi adesso? Bene, bene, sei sempre a fondo. Sì, va bene, la radio è buona. Ok, perfetto, no, perché ero spostata da dove era e c'erano problemi. Capito, e allora l'ho dovuto ascoltare da una e l'ho messo in un altro posto. Ah, è che appare, per il TVI? No, nessun TVI, no. Dice che stavo dentro le cuffie, una le ascoltava in cuffie la il telefonino, gli entravo dentro le cuffie, poi non lo so, adesso, siccome il cavo l'ho cambiato, ne ho tolto via le reti 8 e ho messo le reti l'altro più schermato, capito? Ah, ecco, sì, va bene. Va bene, le cuffie, diciamo che se ce l'hai molto vicino, ci dovresti entrare sempre. Ma, non lo so, non che tu non stia ascoltando in cuffia la telefonia, non te lo so dire, che ti dovrebbe arrivare il messaggio, casomai se rientro dentro le cuffie. Ah, è così, una messaggera accendi. Affermativo. va bene. Antonello. Ma non mi ascolta più Antonello. Antonello è nell'apparecchio casa sua, infatti ti ha chiamato lui, ti ha chiamato per vedere come mi sentivi ti ha chiamato, non lo so se sta cambiando apparecchio, non te lo so dire. Antonello? Dimmi, sono qua, dimmi. Ah, Antonio, non ascolti, a me no. Aspetta, allora telefono due minuti, ti ascolto tutti e due, quello non è un problema, già lo sai. Adesso, detto a cosa, Antonio, ti vieni a casa, portarsi via la... il coso, il 2009 mio, con il microfono amplificato, cosa leggere, attaccare il lineare, allora, apposta, okay. Esce come si deve, e quindi ci vediamo dopo la male, maledetto, tu? Vabbè, vuol dire che non può, avanti a tu. Sì, no, non posso, perché sto facendo delle cose, così che... noi che qui a Cagliari a Sassari, no, già, sono salito tre giorni, è accaduto domani, sabato mattina devo salire e così poi passo a casa sua e vediamo un pochettino la questione, capito? Non ho capito niente, no? Ho detto che sabato mattina poi verrò a casa sua. Vabbè, quando vuoi, sali qua, non c'è lì. Anche passato sali, se vuoi. Porti via il tornato in 2009, con il microfono amplificato, dopodiché già lo sai che devi fare, il lavoro è quello, con lineare, basta che non ho più le balle a quella lì, il tutto casato si apposta, dovresti arrivare, cioè sei quasi 8, quindi dovresti arrivare a 9:10. Non mi dice il segnale, a un certo punto. Anche perché l'avevamo provato con quella roba e il televisore era tranquillo, capito? Tu stai ascoltando qualcosa, mi contengo, quindi faccio la tutto. Sono 8 con quella roba che ho, quindi se attacchi il lineare sono 9:10 e sale. E sei bello tranquillo. Eia, Franco. Chiara, dimmi tutto. Beh, Antonello, non ti connette? Sì, già connette già, è lui che non connette bene. E purtroppo è così, Antonello. Vero, Antonello? Sì, infatti, purtroppo, cazzo, con quel rame che ho, col cavolo, secondo te, cazzo, connetto bene, per arrivare. Il 140 è una cosa allucinante. Perché c'è quel rame col K? Sì, c'ho quello a me col capo, già lo sai, ho preso una bambina, non ho preso un apparecchio, hai capito? Sono rimasto inculato come un asino, il discorso è quello, 300 euro buttati nella mondetta, so. Ma guarda che non sia, che non abbia qualche elettrodomestico lì che ti fa... che ti fa correre, non mi attaccare dagli elettrodomestici le spine, a vedere. Ti ho detto che sono inculato forte, hai capito? Di cosa è quello? Lascia perdere, non è questo lei, come principio. Lascia perdere. Perché io non ho correre con quello lì. Vabbè, adesso ce l'ho acceso, sì, che l'ho acceso. Però quel remme non me ne arriva, come dici tu. Detto te, io ho quel remme segnale 7, più di tu. Capito? Cappa. Aspetta che lo aggancio a vedere, che corrotto l'antenna. Cosa posso fare? La mantova è quella che è. La parete è quello che è. A un certo punto lo devo fare. Io in caso della mondetta ti la potuto. Capo. Ma te ne ascolti? Sì, Franco, ma la televisione accesa ce l'hai cascata. No, aspetta, mi stavo solo il mio campanello, scusa. Poi accedila un pochettino alla radio a vedere se sta facendo strisciato. Aspetta, ecco un attimino di corso. Con le 4.000 che è meglio forse di questa qua. Ok, d'accordo, no, era per vedere un pochettino la RAI, vedere che stanno creando problemi, perché se tutto io la RAI stanno andando in fila. Cappa. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo. Ciao, scusa, Ok, d'accordo, buon proseguimento. Bello. Ok, 5 minuti che attacco, neanche 5 minuti, con le 4.000 che è meglio. Ok, d'accordo, già sono qua in ascolto. Attenzione canale 10 K. E chi è? Chi è avanti? Ola, ola. Colomba vola. E chi è? Chi è avanti? Overland. Io Antonio da questa parte. E Antonio da questa parte. Ma sì, quello di sorcio, sì. Ah, no, fuori sorcio. E tu che sei, Antonio, da dove? Sa, sono Antonio Bombolo, non mi sei detto anche l'altro giorno. Ah, Bombolo, sì, sì, ho capito. Vabbè, stavamo facendo dei controlli, stavamo facendo. Cappa, aspetta che mio figlio sta tirando a 2 secondi. Esci da lì, corri, corri però. Ora, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'è qualcuno? Yes. Ok, ti ascolto. Tu mi ascolti bene, sì? Sì, sì, io ti ascolto, ti ascolto. E sto usando il Connex 4000 adesso. Ok. Antonio, ci sei? L'altro, naturalmente, quello Bombolo. Bombolo era un po' impegnato, così che ha detto che arrivava subito. Siamo salato allora, quindi siamo a posto, vabbè. Okay. Eccomi. Mi sa vedere, stazionali, 1 e 1, cazzo, era male, era ora, cazzo, dopo tanto. Eccomi, eccomi qua. Ebbene, tanto con me ascolti, dammi il controllo. Una bomba, sì, cosa hai combinato? Stazionale 1 e 1, tutto da solo l'ha fatto l'antenna, non ho toccato niente io, la verità è. E allora si è girato qualcosa? Sì, sì, e si è girato del male, cosa ne so? Boh, non so, qualcosa c'è. O c'è ossidazione, boh. Adesso comunque va meglio, va. Ho controllato le stazionarie. 1 e 1. Era ora. Io sono a contare qualcosa, qualcosa di suoto mio adesso. Sto modulato. C'è Antonio giù da Platamona, certo, prima di Platamona naturalmente. E tu? Il canale si lo sento abbastanza bene, lo sento senza problemi. E comunque sei bello forte il segnale. Meglio così, sono liscio, vabbè, la verità sono liscio. Il cavolo è staccato momentaneamente, quindi figurati tu. Gappa gappa, ecco qua, già va bene già. Io ho montato questa antenna e mi trovo bene. Meglio così, lui ha montato l'antenna, quella della tua, tale uguale che l'ha a casa sua. Avanti Anto. Quella con il radiale? Eia. Cos'è la... Ma, faccio... La GPE, così è? La NG5 ottavi. No, la mia è la GPE della Silvia. No, Gabri, mi rompe il ventilatore. Ma dimmi tu a questo. Sono uguali, cambia solamente il nome, ma sono NG5 ottavi, BA27L, tutto assieme, già lo sai. Sì, sì, l'unica cosa che cambia è che la mia c'ha quei cosi nelle giunture. E cosa c'ha? C'ha il radiale, la bobina di carica e tutto lo scivolone. Solo il tre radiale basta. 5 ottavi comunque questa qua. È uguale, è uguale, come la mia. Però l'unica cosa che cambia, mi sa che... Che la Sirio mette quei cosi, sono delle plastiche tra uno stilo e l'altro, capito, con le viti. Solo quella la differenza. Ma la bla, che cosa? La sua è uguale alla tua, mi tale uguale. C'ha quella specie di plastica che si mette sopra, la mia 27L in pratica, mi. C'ha quelli, c'ha uno stilo all'altro, c'ha quella specie di cose di plastica in modo da potete bucare le dita, tutto lì. Discorso, ma ce l'ha anche lui, tale uguale, lui se l'ha fatta arrivare da fuori, mi. Quindi, è uguale. identica alla tua. C'è i radiali, c'è quell'abbasamento di sotto che si mette dove è, eccetera, eccetera, capito? È precisa. Allora è precisa. Anche la Energy l'hanno fatta così, perché il modello vecchio non ce l'aveva quelle. Avanti, ciucucciù. Buonasera a tutti signori, vorrei ricordare 10 anni ce l'ho su la Energy, incredibile ma vero e funziona perfettamente. Buonasera a tutti, vai Antonio. Buonasera a lei, ma infatti per le prestazioni che ha non la cambierei mai. Ho sentito un'antenna che non voglio fare nome, può caricare, cioè soldi a banda, eccezione si lascia desiderare, lascia perdere, questa cosa qua li fa 8 a 0 li fa. Ehi, sono entrato tanto in fretta a gamba tesa, chi altri c'è? Chi altro ha la Energy? Un altro amico c'era e mi pare di aver sentito anche Pomponi, avanti. Io Antonio, sì, anche io sto con la l'antenna lì, sembra che sia della Siga. Che sono meno io. Comunque della, dovrebbe essere della Siga, 5 ottavi, con 3 radiali, sui fili c'è questa, diciamo, protezione di plastica con delle chiusure, quindi di chiudere bene tutto quanto, perché sennò poi quando si tratta sempre il solito problema, stazionarie. Ma la mia, è uguale alla mia allora, è precisa identica. Sì, sì capo, sì io confermo, io ho la Energy della Midland, la Sirio in più ha quei manicotti di plastica tra uno stilo e l'altro e c'ha quella gabbietta in punta, antistatica dovrebbe essere, per il resto è il clone, è identica. Sì, ripeto, guarda, io e Pomponi abbiamo fatto un'ottima installazione, abbiamo isolato tutti i punti sensibili con l'agglomerante, io non l'avrei mai creduto, ho detto più di 3 anni non durerà e se ci dura è abbondantemente ripagata, invece c'è 10 anni, messa a maggio 2014 e quindi li ha compiuti a maggio 2024 i 10 anni, ci avanza anche qualche mese. Riprendi Antonio? Sì, io abbiamo avuto la Super Rigid, non so se l'avete conosciuta la Super Rigid, diciamo era isolata abbastanza bene, funzionava perfettamente, non ho più visto il commercio quella antenna lì. Sì, eppure è considerata un'antenna come la un po' di seconda classe, non è certo paragonabile alla Mantova come robustezza, eppure vento qua ne prende perché il palazzo, compreso il tetto, c'è 4 piani più il piano rialzato come che fossero 5 piani, quindi ne prende di vento, eppure sta resistendo. Adesso che l'ho pindacciata domani si rompe. Antonello, riprendi. Quello non mi fa nulla, non si codica con l'antenna, fregatene. Io vivo, gli ho fatto di quelle antenne, lo sai, e sono a Mantova, lui c'è ancora quella Gianni Pinchi, lo sai, è ancora piazzata lì, di fronte alla casa di Fabio Master, dove c'è l'ufficio provinciale del lavoro, hai visto? Che c'è la piazzetta dove in pratica abitava la vecchia, la Buonanima, cioè Buonanima, già è quella vivo, oltre a Dio, ma comunque sia, abitava già Paolo Mandrake, che cosa del genere, tu rivedi tu, in chi lui è, l'antenna, c'è più di 20 anni, l'ho pensata io, la Mantova 5, figurati tu. Ehi, ehi, va bene, riprendete che vado a bere, sto ascoltando, dai. Vabbè, dai, comunque io non la cambierei mai, perché come prestazioni, lascia perdere, come prestazioni qua funziona ben bene. Ma poi resiste a 160 km orari al vento, perché qua vento a 160 km, anche un paio di vera 80, 90, però la fa benissimo a reggere al vento, dai. L'importante è che siamo andati al vento, perché il problema è che si può fare. Aspetta, faccio mezzo di bianco, Antonio, vado un attimo da Fusaro a prendermi i componenti per un pezzo che mi hanno dato a riparare e poi rientro immediatamente qua a casa. quindi dammi una metodetta, massimo 4 ore esco con lo scooter, insomma mi ha fatto prima naturalmente, ma spero di no, e quindi accettiamo fra un po' là, ok? Ti chiamo io appena sono arrivato a casa. Sì, non ti preoccupare, scappa. Non ti preoccupare. Avanti, Anto. Sì, ok, d'accordo, Antonio. Sì, un 4 ore non ce l'ho mica quello scooter di mia madre. A Fusano. Fino a ce ne voglio mezz'ora arrivare da casa tua a Fusano. Vabbè, che hai discesa. Ma non è che puoi aumentare tanto. Ok, vabbè, d'accordo, ci sentiamo dopo. Avanti, Anto. Con la mia moto ci metto 5 minuti. Ma lui c'ha quel scooter. Per le persone disabili. Ah, già anda Burghese, bisogna farla andare. Ma bisogna vedere se tu cammina. Lui non c'ha frice neanche, no? Infatti se deve mettere a posto un po' così. Caffa. E comunque abbiamo la stessa antenna, tu l'hai con la stessa Sirio, è vero? Sì, Sirio, circa tardi. E poi piano piano la sono montata qui, e verranno. Poi faccio la ripassa, e ti rompi di piano piano, perché non c'è un passo. La più grossa, la più sottile, e poi ricasso, ma se ne c'è ricasso, e ne ha preso la. Sono qua, per riservarla bene, capisci? E poi una volta abbiamo montato il tutto, c'è la bobina di carica, lì che c'è sotto una base di plastica per non entrare l'acqua, lì lo stesso è quello sotto di un'altra isolante perché non sa mai colare l'acqua, o ce l'ho coprire i buchi, lo sto dicendo, perché quelli sono importanti, No, quelli non ho toccato niente, no, solamente quel pezzo di plastica che è a sopra, quel pezzettino di plastica che è a sopra, lì sopra c'è un sacco di altri isolanti, basta, poi di altro non c'è nessuno altro. E allora già va bene, dai. Già va bene. Dove l'hai presa? In continente? Sì, l'ho presa da fuori, l'ho presa da uno che la stava lavando via, ma non voleva di più, poi ho passato il treno. Già era un casino a farla finita, sotto una scatola, e avevo dovuto comprare un pezzo di tutto di plastica, così della verità. L'ho messa lì dentro, l'ha ben messo della roba dentro, e poi me l'ha finita da un'amica, da un'amica di un'amica, l'ha mandata, e infatti avevo si è rotto un pezzettino di buco che c'è per il corrido, non ho preso in vita, però l'antenna aveva passato in salva, Cappa, quanto l'hai pagata, si può dire? Pagata da trasporto e tutto, vedo un passante. Quanto? Sei io. 68 euro? Eia. Mi pare che io nuova da... Me l'ha presa un amico, me l'ha presa e me l'ha installata lui, è stato molto bravo, è una persona, vabbè, che ti dirò, poi, cioè, molto molto brava anche lavorando. E, mi pare che l'ho pagata uguale, o non mi ricordo, boh, adesso, che dovrei avere lo scontrino. Ma questa era nuova, questo la... Allora, era di una persona, l'ha montata su 3 giorni e poi l'ha messa giù, l'ha tirata fuori di questa persona che non ha pulita e tutto. Ma, capito? Era nuovo, è nuova roba la testa. Come ha detto, diceva, 3 giorni che l'aveva montata e l'ha tirata giù, l'ha sicurezza, non ha preso niente, l'ha regalata lì, l'ha regalata, lì ha preso, l'ha messa subito e l'ha pulita. Però lui le stava venendo 60, qui era sceso 50 e io non so perché se non era solo lui, ho detto fatto più difficile che ho detto, non ho mai già pensato 50, quindi faccio la Avanti Giulio. Ok, ciao Antonio, buona serata. Saluto anche l'amico che non l'ho riconosciuto. Avanti che sei, amico Giulio, da questa parte. Ciao Giulio, io mi chiamo Antonio, come per Antonio che c'è in frequenza. Io sono nelle vicinanze di Sorso. Ti chiami Antonio e sei nelle vicinanze?